Conto alla rovescia. L'Italia nello spazio. Cari ascoltatori, buona domenica, benvenuti al secondo appuntamento con Conto alla rovescia. Questa settimana continuiamo a parlare con il presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana Enrico Saggese delle principali missioni in corso. La scorsa settimana abbiamo parlato di Cosmos SkyMed, questa è la volta della missione Discovery STS-133 che porta nello spazio in orbita alla Stazione Spaziale Internazionale il modulo PMM, un modulo pressurizzato, abitabile dunque, costruito in Italia. La stazione spaziale attualmente è in una versione quasi completa, che si stanno aggiungendo gli ultimi pezzettini per poi poterla sfruttare appieno per ancora più di un decennio. Attualmente l'idea è che la stazione spaziale funzioni fino al 2020, ma qualcuno sta cominciando a pensare di usarla fino al 2026 o 2028. Quindi è un momento di finalizzazione, anche perché lo shuttle, come tutti sappiamo, sta andando in pensione. Lo shuttle ha una capacità di carico enorme, ha un vano di carico particolarmente grande, che può ospitare al suo interno questi moduli logistici. Il modulo logistico essenzialmente è un grande tubo del diametro di 4 metri e con un accesso pressurizzato. Quindi la situazione di questo modulo logistico era di consentire il trasporto di esperimenti sulla stazione spaziale e di consentire poi di riportarli indietro sempre con lo shuttle. Questa andata in pensione dello shuttle ci ha suggerito di lasciare questo modulo, una volta portato su, permanentemente attaccato alla stazione spaziale. Quindi abbiamo creato un volume abitabile maggiore per la stazione spaziale. Oggi gli spazi sono importanti, però in realtà, via via che il mondo scientifico si appassiona alla stazione spaziale, si verifica che non sono mai sufficienti. Esatto, sulla stazione spaziale adesso abbiamo un equipaggio di 6 persone permanentemente a bordo e quindi i volumi abitabili, non parliamo di superficie perché lì appunto senza gravità parliamo di volumi, non bastano mai, tant'è che a volte quando si attacca uno shuttle alla stazione spaziale con altri 6 astronauti, alcuni di questi dormono sullo shuttle, quindi abbiamo una situazione di affollamento. Sono 7 metri di lunghezza, 13 tonnellate al lancio nella configurazione di lancio, il modulo è più leggero ma qui è stato letteralmente imbottito di strumenti per la ricerca. Una tecnologia, lo possiamo dire senza falsa retorica, in cui l'Italia ha fatto dei grandi passi in avanti negli anni. Ma sì, l'Italia ha costruito qualcosa come il 50% del volume abitabile della stazione spaziale, lato occidentale. Ha costruito questi moduli logistici, adesso permanentemente attaccati, ha costruito il modulo Columbus, che è un laboratorio europeo fatto per l'ESA, ha costruito il nodo, uno di quei dadi che in una specie di Lego consentono uno sviluppo tridimensionale della stazione rispetto all'idea di attaccare i segmenti uno appresso all'altro, e ha costruito anche la cupola, e cioè la possibilità di vedere la Terra da una zona trasparente formata da 7 finestre a cupola, mentre prima i poveri astronauti erano costretti a guardare la Terra a turno da un piccolissimo blò. Quindi direi che abbiamo creato delle realtà importanti, ma anche architetturalmente importanti, oltre che tecnologicamente avanzate. Tutta questa bagaglio anche culturale, industriale, dove ci proietta? Non c'è il rischio che, una volta completato questo, si areni anche il percorso dello sviluppo industriale in Italia? Ma certamente no, certamente oggi è importante sfruttare questo laboratorio, quindi abbiamo davanti a noi qualcosa come probabilmente 10 o 20 anni di sfruttamento. Certamente sfruttare significa anche limitare la presenza dell'uomo nel prossimo futuro alla zona vicino alla Terra, però Obama e quindi anche la NASA di conseguenza stanno sviluppando l'idea di una spaceship, e cioè di una nave spaziale che possa arrivare sulla Luna, più che sulla Luna, intorno alla Luna è stato detto, intorno agli asteroidi, sulle lune di Marte, cioè tutti i luoghi in cui la gravità è particolarmente leggera, quindi non bisogna portare appresso grandi pesi di propellente per poter riallontanarsi da questi pozzi gravitazionali. È chiaro quindi che nei prossimi anni bisognerà cominciare a pensare al futuro, e ci stanno cominciando a pensare americani e russi con motori atomici, perché chiaramente per quanto enorme sia la stazione spaziale, diciamo due campi di calcio, la potenza che c'è a bordo è relativamente modesta, 70 kW, mentre una nave spaziale ha bisogno di megawatt. E allora si sta pensando di fare motori spaziali da 1-2 megawatt elettrici e quindi con una capacità di navigare. Grazie ancora ad Enrico Seggese, lo ricordo presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana, per essere stato con noi. Si chiude qui il secondo appuntamento con Conto alla Rovescia. Noi ci risentiamo domenica prossima. 3, 2, 1. We have ignition.